25 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 25 dicembre. Io preferisco a tutti gli altri mesi dell'anno quello di dicembre, perché c'è il Natale e Caterina fa sempre due bei budini, uno di riso e uno di semolino, perché alla mamma piace quello di semolino e quello di riso non lo può soffrire. E il babbo va matto per quello di riso, mentre quello di semolino la annoia come il fumo agli occhi. Io invece li preferisco tutte e due, e siccome anche il dottore dice che fra i dolci i budini sono i più igienici, così ne mangio quanto mi pare e nessuno mi dice nulla. Fine del 25 dicembre.